La seconda parte della serata prevede la presentazione del libro I ragazzi della barriera, la storia della banda Cavallero di Claudio Bolognini, edito dall'agenzia X. Questo libro, dal mio punto di vista, è un libro importante perché è sicuramente il primo libro che racconta questa vicenda da un punto di vista completamente diverso da tutte le ricostruzioni che sono state fatte nei decenni passati. In primo luogo il film abbastanza famoso di Carlo Rizzani, che vedeva come protagonista Gian Maria Volonté nel ruolo di Cavallero e che utilizzò la bravura di Volonté per costruire un po' una macchietta della figura del capo, poi con gli stereotipi classici nell'analizzare una vicenda come questa, con il capo, il luogotenente e i gregari, senza spiegare assolutamente le ragioni per cui un gruppo di ragazzi con una provenienza politica molto precisa, di sinistra, del partito comunista, antifascisti, con un'esperienza di lotta, di presenza sociale nel quartiere dove vivevano, a un certo punto, di fronte al fatto che non si ritengono più soddisfatti delle posizioni politiche del partito, non pensano che il partito stia portando avanti le esigenze dei lavoratori, quelli che dovrebbero rappresentare, decidono un percorso loro, poi di cui dopo parleremo. Quindi tutta questa parte qua, insomma, le ragioni per cui nasce appunto la banda non sono mai state affrontate in maniera seria, se non in un libro di Sante di tanti anni fa, quando un libro che parlava della sua esperienza nel carcere, un'evasione impossibile. Bolognini queste cose le affronta. Lui ha un'esperienza poi di raccontare vicende. Io mi ricordo che presentavo a suo tempo un altro suo libro, era Mani in alto, sull'esperienza della banda Casaroli, che era una banda che operò qua nella città, e anche in quel caso appunto vennero analizzate le situazioni sociali, i percorsi di vita precedenti degli aderenti alla banda. Il libro da questo punto di vista è uno spaccato forte che non fa sconti, dice, racconta le vicende attraverso una figura di fantasia dell'amico che ha fatto i percorsi precedenti insieme agli aderenti alla banda e narra questa vicenda, una vicenda che si è riempita delle informazioni, della cronaca, un lavoro di ricerca molto serio. Poi c'è una parte finale, secondo me altrettanto bella e importante del libro, dell'appendice, dove viene raccontato l'incontro tra Claudio e Sante, dopo che Claudio ha portato il manoscritto a Sante e Sante l'aveva letto. Insomma, questa parte per me è una parte molto forte, di grande impatto. E quando io chiesi a Sante se gli andava di venire a presentare assieme a Claudio il libro qua a Vag, lui disse sì, vale la pena farlo, perché la cosa che proprio la parola che mi colpì e che poi è riportata anche nell'incontro, perché è un libro onesto, il più onesto che sia stato mai fatto per raccontare questa vicenda. Ora io vorrei chiedere all'autore del libro quali sono state le motivazioni che l'hanno spinto a fare questo lavoro, perché non è sicuramente un lavoro, diciamo così, che di editoria facile, insomma, è un lavoro molto serio, rigoroso, su una vicenda di tanti anni fa che molti non conoscono più, una vicenda anche difficile da affrontare, e quindi è interessante capire perché uno scrittore a un certo punto decide di fare un lavoro di questo genere? Niente, come dicevi tu prima, nel scrivere il libro precedente sulla banda Casaroli spesso mi imbattevo, andando a studiarmi tutto il percorso di questa banda degli anni 50, c'erano riferimenti alla banda Cavallero ed erano continui. Qualsiasi libro di saggistica o di cronaca spicciola in cui revocava le vicende del banditismo in Italia, spuntava sempre la banda Cavallero. E allora mi è incuriosito, quindi ho approfondito la cosa e poi mi sono scontrato anche con vicende personali, che sono quelle che poi ti permettono di affrontare un discorso con passione, con rigore, con coinvolgimento. E sono quelle legate al film che citava Valerio prima, Banditi a Milano, che io lo vidi da ragazzino e mi aveva colpito dal punto di vista spettacolare, perché c'era già Maria Volonté che interpretava un cavaliere sopra le righe, quindi, però l'avevo visto come un film d'azione, tra l'altro fu uno dei primi film che crearono il genere, adesso si chiama poliziottesco, in cui c'era il Thomas Millian, un commissario, insomma, aveva tutta un'analisi. Era un film che non andava a spiegare minimamente da dove provenivano questi rapinatori, non faceva menzione assoluta del loro passato, ed era una cosa che a me interessava. Tra l'altro, da ragazzo, lessi il libro di Stante Lontana Nicola, L'evasione impossibile, però all'epoca, nel 72, lo lessi molto, perché poi la parte centrale di quel libro, anzi la parte preponderante, è tutta relativa alle lotte carcerarie. Santi in quel libro narra in prima persona insomma, fatti molto anche frettolosi, legati forse anche al momento, che erano ancora caldi, dovevano pochi anni in carcere, di vicende della banda, ma in maniera molto, molto sommaria, però cita dei fatti che io ho ripreso proprio in maniera rigorosa quasi, e li ho fatti vivere, gli ho dato una voce, gli ho dato un'ambientazione, li ho romanzati, come si dice in gergo, e ho utilizzato la forma del romanzo perché era quella che mi permetteva di essere abbastanza distaccato da poterli raccontare senza dare giudizi, e nello stesso tempo di non essere direttamente al fianco di chi compiva le rapine, perché ci sono state poi diverse, eccetera. E allora ho utilizzato uno stratagemma narrativo, che è quello del io narrante, in cui parla in prima persona in alcuni momenti, però racconta queste vicende, ed è un ragazzo della Barriera, e che ha conosciuto Lontano Nicola quando è emigrato a 13 anni, 14 anni dalla Puglia, è andato a Torino, in questo quartiere, la Barriera, e hanno fatto amicizia, e mi interessava tutto questo aspetto in cui è, diciamo, quello forse più comune a tanti di noi. In tanti di noi ci siamo trovati in queste situazioni, in cui sono cresciuti nelle case del popolo, tra le feste tra amici, le prime ragazze, i primi interessamenti politici, i primi riferimenti che c'erano, i partigiani ancora con le armi lì, anche se le tenevano gelosamente nascoste, ma erano quelli riferimenti di ragazzi in cui andavano a distribuire l'unità alla domenica. Mi interessava analizzare tutto questo aspetto, cioè approfondirlo molto più questo aspetto, per poi arrivare anche alle gesta che hanno compiuto, perché c'è anche poi questo aspetto. Però mi interessava partire da questo, infatti il titolo, I ragazzi della Barriera, è proprio questo, non è la storia della banda Cavallero, che c'è anche, che va a finire lì, infatti il libro poi finisce quando vengono arrestati. Però mi interessava analizzare quello che non avevo mai trovato prima, quindi ho utilizzato il libro di Santo Lontano Nicola descrivendo i fatti che lui cita in maniera molto sommaria, e io ho cercato di interpretarli, calandomi in questa realtà. Mi sono documentato, sono andato a Torino diverse volte al quartiere della Barriera, ho cercato di ripercorrere le strade che avevano percorso loro, per gran parte che ci sono ancora, via Cuneo che citava prima dove abitava, quindi ti fai anche una tua, a me non piace farlo così, di vivere le situazioni in cui penso che possono aver vissuto, vedere gli alberi che c'erano, non c'erano, il fiume, ecco, ho cercato di ricreare questo ambiente. Poi un'altra cosa che mi aveva colpito, quando si parlava della banda Cavallero, si partiva sempre da queste famose 17-18 rachide che c'erano fino all'ultima a Milano nel 67, facendole partire dal 62-63. Non si parlava di una rapina che cita solo Santi Lontano Nicola nel suo libro e non la cita nessun altro. È la prima rapina che fecero nel 59 all'ufficio paghi della FIA, e anche qua ha una valenza politica, perché quindi c'erano la Fiat, c'erano i guardioni della Fiat, quelli che avevano poi vessato, licenziato gli operai, il reparto confina. Insomma, ho voluto ricreare tutto questo ambiente, gli ambienti del primo dopoguerra, la Volante Rossa, l'attentato Togliatti, la morte di Stalin. Vabbè, adesso potrei andare avanti, non voglio raccontarvelo tutto, però ecco, partendo da questa prima rapina, fatta proprio a evidente scopo politico, perché colpendo il centro, il patronato, la Fiat, eccetera. Fatta questa, acquistarono le armi da spedire ai movimenti di liberazione in Algeria, che allora c'era la guerra d'Algeria. Dopo, per vari motivi, anche paura di essere scoperti, stanno 3 anni senza vedersi. Infatti io nel libro interrompo e dico 3 anni dopo. Si rincontrano, qui per arrivare al nocciolo della serata, che tra l'altro mi emoziona abbastanza, che parlare dopo un documentario del genere, ho detto, si è già detto tutto, ecco, quindi io l'ho già scritto, chi ha voglia di leggere solo legge, però ecco, dopo questa prima rapina del 59, i componenti di questa rapina non si fanno più vedere apparentemente insieme, e però si ritrovano, o casualmente o meno, in Piazza Statuto nel 62, Piazza Statuto che è nel centro di Torino. Quindi si ritrovano, e l'episodio che citava Sante prima, alla festa dell'unità in cui andarono a cercare i fondi di solidarietà da mandare agli arrestati, e trovarono il muro dei dirigenti del PCI. Io l'ho romanzato nella vicenda in cui faccio parlare Cavallero, che accende la sigaretta, ho cercato anche di dare un tono narrativo che sia anche non statistico, sia un minimo piacevole. Ecco, da quel punto lì c'è proprio la separazione, a quel punto lì abbandonano anche qualsiasi velleità di ricredere nel Partito Comunista che potesse affrontare un discorso, passare da rivolta a rivoluzione nel vero senso della parola, e poi intraprendono la strada di queste rapine abbastanza precise, ben determinate, sempre con questa figura del Rio Narante, di questo amico che in un primo tempo aveva aderito a cercare di studiare le motivazioni per fare le rapine, anche proprio le questioni pratiche, però per un motivo anche banale, anche casuale, non aderisce. Ecco, mi serviva creare questa figura perché potesse essere una figura che possa essere al loro fianco, però non volevo esserci fino in fondo, cioè, in parole povere, non volevo né creare degli eroi, perché non era questo il mio compito, e né comunque neanche poi criminalizzare una vicenda, comunque. Per non dare giudizi mi sono servito di questa figura di fantasia, come ce ne sono diverse, perché poi è un romanzo, che poi alla fine ho scoperto che poi di fantasia non era tanto perché un personaggio del genere forse poi è esistito davvero, e quindi questo mi ha creato maggiore emozione nell'avere poi visto giusto, ecco, nel farlo, perché poi un'altra cosa da dire, poi non dico più niente, è che io ho scritto questo libro, ho scritto il manoscritto, prima di pubblicarlo l'ho fatto leggere a Santa Rosa Nicola, che io prima non conoscevo, e mi sono proposto che se a lui c'era qualcosa che non andava, visto che parlavo anche di vicende al di là della cronaca, perché ne hanno parlato in tanti, sono sui giornali, non poteva dire, lui preso le notizie della cronaca dei giornali e le ha romanzate, vabbè, uno può affrontare nel modo, però racconto anche delle cose anche abbastanza intime che ci tenevo ad avere, non dico il suo benestare, perché lui ha detto non devo darti il benestare io, però me l'ero un po' riproposto, che quando si va a parlare di cose che vanno anche a muovere cose molto personali, c'è una sorta di rispetto, me l'ero proposto in prima persona, dico se ci sono cose che non sono gradite, non lo pubblico, tanto non me l'ho ordinato nessuno, quindi cioè, però visto che quella cosa è andata bene, praticamente non mi ha fatto nessun appunto se non due cosine proprio terra a terra che non andavano a influire, e quindi su questo sono stato molto soddisfatto, ecco. Grazie. Sante, io non faccio nessun commento, parla tu. Anche lì nel video io non me lo ricordavo più, non c'era sottolineato l'aspetto che Piazza Statuto aveva avuto all'interno del nostro gruppetto separato da PC e da tutto, e dove noi, dove come si ingrandivano un po' le cose, no? La Will aveva tradito, e l'incazzatura appunto dei meridionali fu quella. Cioè, non è che dici ho fatto una scelta diversa, no, tu hai tradito, quindi sei un infame, sei una carogna, sei quello con cui furono poi trattati, eccetera. Del resto poi, sai, quando ero ragazzo io c'era stato il momento in cui c'era stata la spaccatura nel Partito Socialista, e io mi ricordo che i saragattiani, che erano poi quelli poi della UIL, eccetera eccetera, nella sezione la voce che girava dice: questi sono traditori della classe operaia, eccetera eccetera, per cui bisogna trattarli come i fascisti. Questa era la... E difatti loro in Piazza Crispi una volta tentarono di fare un comizio e gli andò molto male, per cui diciamo il fatto di essersi ritrovati traditori in Piazza Statuto, a noi ce l'aspettavamo, non è che non ci ha meravigliati, eccetera. Però c'era a ridosso, come diceva Livio, di Piazza Statuto, c'era un mondo diverso, un mondo... Vedete, quando io sono arrivato a Torino c'erano due modi in cui i terroni venivano su a lavorare alla Fiat. Sceglievi i parroci di tutte le cittadine, di tutti i paesi, eccetera, avevano questo compito qua. Si era aperto questa grande possibilità di manodopera, e quindi loro erano molto attivi nel mandare a Torino gli immigrati, eccetera. Poi c'erano gli altri. Quando arrivavi a Torino, lo stesso meccanismo funzionava, perché quelli che gli avevano mandati il parroco andavano a messa la domenica, eccetera. Gli altri andavano alla domenica, andavano a distribuire l'unità, e quindi era molto netta la divisione, eccetera. Però perché ho detto questo, che adesso che non mi ricordo più, cos'è, da dove eravamo partiti, tu non sei stata attenta. Ma qui l'ho persa anch'io. La Will. La Will, ecco, quindi, grazie, sì. Quindi questa violenza, questa cioè era lo spontaneismo, no? Si è sempre pare, cioè non è che lo spontaneismo sia una cosa criminale, sia una cosa, no, è una cosa che arrivi a un certo momento, che arriva l'occasione, e noi, si diceva lì, si aspettavamo da tempo l'occasione, eccetera, in cui in quel momento lì qualcosa, diciamo, nella Fiat e nel partito non ha funzionato, e quindi questo ha avuto il sopravvento. E poi la cosa brutta, infame, era stata quella che poi questa gente qui è stata criminalizzata, ma nel giro di poche ore, non è che... Cioè, quando dice il compagno... il compagno dirigente che arriva, Paglietta, che arriva, eccetera, lui arriva col treno, noi andiamo a prenderlo alle 5 del pomeriggio, andiamo a prenderlo, facciamo da Porta Nuova a Piazza Statuto, sono 10 minuti, non è che... E poi non c'era un dirigente, no, che... di spiegavo o cosa, no? Eravamo tutti ragazzotti un po' sprovveduti, un po' così, eccetera. Noi, diciamo, riuscivamo solo a non trattenere il nostro entusiasmo, di avere la certezza che stavamo vivendo un momento particolarissimo, hai capito? Qualcosa di cui aspettavamo da tempo, sì, c'era stato luglio 60, eccetera, però era il partito lì, questo era qui, non c'era il partito, non c'era dirigenti sulla piazza, eccetera. I dirigenti diventavamo noi militanti, hai capito? Che diceva, ma figurati, dice, no, andiamoci dentro, punto e basta, non... Quindi il fatto che poi lui a poche ore criminalizza quella cosa lì voleva dire uno scollamento molto serio, molto, molto brutto che c'era tra il partito e la massa, che ce la manavano sempre il partito e la massa, eccetera, eccetera, però nel momento cruciale a Torino, in un momento storico proprio per la Fiat, per la cosa, non ti puoi dire che a me la Fiat mi dava 2000 lire per scendere in piazza, hai capito, per fare casino. E questo l'hanno detto, l'hanno scritto, 2000 lire, tutti, dice, tutti avevano 2000 lire in tasca. Ma io non ce li avevo 2000 lire in tasca, magari se li avessi avuti, no, non ce li avevo, né quel giorno, né il giorno prima, né il giorno dopo, per cui hai capito, quindi c'era stata una serie di errori, ma non sono errori quelli, era la linea che non funzionava, eccetera. Quando ti dico che per noi come banda è stato essenziale, è stata la fine, no? La fine del nostro rapporto con il partito e con le guardie, era già avvenuto precedentemente, però fu la comprensione di che questi, cioè non era solo lì, perché poi c'era stato il 58, cioè è la vita di un militante del PC, un po' dissidente, è stata molto dura, è stata molto, molto, molto frastagliata, molto eccetera, che parte dalla destabilizzazione, che arriva alla via italiana al socialismo, che arriva a Genova, arriva a Piazza Statuto, eccetera. Piazza Statuto, sì, è vero, c'era un altro ceto politico, anzi spoliticizzato, più erano spoliticizzati e più erano belli, secondo me, perché avevano tutto da conquistare, anche la cultura, anche le cose, anche... E io quella gente lì poi me la sono rivista in galera, negli stessi termini, negli stessi modi e con la stessa voglia di lottare, perché quella fu un insegnamento molto grosso, molto, molto, hai capito? Quindi io anni dopo me li ritrovai nelle celle e fummo capaci di rivoluzionare uno degli aspetti più carognieschi che aveva questo Stato, quello Stato che era quello del trattamento penitenziario, facendo attenzione che adesso siamo ritornati a quel livello lì, nelle prigioni, nelle carceri. E chi vuole considerarsi di sinistra non può non condannare l'ergastolo ostativo e soprattutto il 41 bis. A me il primo che mi dice ma quello serve per i mafiosi, se posso gli spacco la faccia. No, quello serve per i comunisti, sempre e comunque. Tutta la repressione, tutte le cose aspettano sempre te all'interno e forse qualche compagno di questo movimento, eccetera, un assaggio di quello l'hanno già fatto e quindi sono dei testimoni, devono testimoniare questa cosa qua. Se poi avete da farmi qualche domanda, volentieri. Cioè non rispondo a tutte le domande, non è che sia così scontato. È quella che vuoi. Così saltatezza. No, va bene. Vuoi dire qualcosa? No. Generalmente volevo aggiungere una cosa rispetto al libro di Claudio, parlando dell'ergastolo, io avevo 29 anni, quando mi hanno arrestato, dopo pochi mesi c'è stato il processo, un processo di quelli così dire, e alla fine del processo, in primo grado, ci siamo trovati con tre ergastoli a testa, i miei compagni. Più 28 anni, ecco, 28 anni facevano girare un po' le palle, tre ergastoli non ci stanno bene, non perché erano le condanne così, non lo so, così quindi i nostri avvocati andiamo in appello, in appello 5 ergastoli a cranio, sempre più di 28 anni, fallimento totale, era stata una cosa simpatica, particolarmente. Devo dire che io avevamo un avvocato che si chiama Bianca Emilia di Serra, che in questo luogo qui, un anno e mezzo fa, abbiamo commemorato in qualche modo, perché è una donna straordinaria, una donna che dalla resistenza fino alla sua morte è stata... Leggetevi il libro Le Compagne, andate in biblioteca, cercatelo e poi magari qualche altra cosa sua e scoprirete una donna veramente grande. Quindi, ecco, e quindi? No ragazzi, no, io infatti queste cose qui sono alla fine, poi chiuderemo la serranda, perché mi succede molto spesso questo, mi succedeva prima, adesso è galoppante la cosa, quindi non me ne frega niente, non è che se qualcuno ha capito dov'è che... Ah, no, l'ergastolo, pardon, se arrivo da solo. Comunque, sull'ergastolo, cioè c'era due scelte da fare. Dici, bene, data le condizioni di vita di quel carcere lì, potevi scegliere. La cosa più semplice era impiccarti. E quindi, ma non per commiserare, no, impiccare lucidamente, dici, boh, io questa cosa qui non ci sto. Quindi scelgo, e tante lo fanno, e scelgono, e buono. Io che fui fortunato a essere arrestato in quel periodo lì, ebbi una possibilità diversa, quella di lottare. Noi da subito, prima che ancora finisse il processo, avevamo fatto una rivolta a San Vittore durante il processo, per cui diciamo la stampa dell'epoca caricò, dice, non solo questi hanno fatto questo, quest'altro, eccetera, ma mo arrivano eppure fanno le rivolte in Francia, e dai su, allora capisci se te. E quindi dicevamo, io mi ricordo, avevamo una sera, ci eravamo, noi non avevamo più i rapporti di un tempo come banda, con Piero, con... Però c'erano delle e quindi eravamo divisi tra di noi, eravamo sempre divisi, però c'erano delle necessità giuridiche, eccetera, che ci facevano trovare tutti insieme. E mi ricordo che un pomeriggio lì ci trovammo e dissi, beh, che cazzo facciamo? Dici, che facciamo? Fuggire, avevamo tutti gli occhi addosso di tutti. Dice, ci va troppo tempo, non dobbiamo capire le cose, eccetera. Adesso ci dividono, cosa facciamo? Dice, facciamo un'inchiesta a San Vittore sulla composizione sociale di chi abbiamo a che fare. E quindi, allora la cosa che scoprimmo subito, immediatamente, era che gran parte, soprattutto i giovani, giovanissimi, non erano delinquenti professionali, no, non erano, erano semplicemente, facevano parte di nuclei familiari, di cui, come si diceva prima, era la pecora nera, no? Quello che insomma schivava le cose, eccetera, eccetera, mentre gli altri, poi tutto il nucleo familiare andava a lavorare alla Fiat. Per cui questa scoperta fu la chiave di volta in cui noi ci mettemmo a caccia dei ragazzi e dicevamo, senti, ma cazzo, come facciamo a sopportare questa cosa qui, il bugliolo ancora in galera, la birra che non te la davano, che se ti trovavano un pezzo di birra ti mandavano alle celle punitive, e tutte queste cose, cioè, è impossibile, non si può a questa nel 68, 69, 70, non si può tollerare una cosa del genere. Per cui dici, qui cosa faceva tuo padre, la tia, cosa faceva? Faceva lo sciopero, no? E noi non possiamo fare lo sciopero, facciamo lo sciopero e cominciamo di lì, comincia un'avventura di cui io ve lo dico con tutto, credetemi, io da quando avevo capito questa cosa, ci eravamo gettati a fare iniziative, a volte rivolte, a volte fermate all'aria, a volte qualche volta sciopero della fame, cioè tutto, mettere tutto in cantiere, tutte le cose che tu potevi mettere in cantiere, spariva la pena dell'ergastolo, io non l'ho mai più sentita, cioè non... insomma, sono un poeta, ho scritto un casino di poesie, ma sull'ergastolo non ho scritto un accidente di niente, perché non mi interessava come... Eppure doveva essere per un detenuto, la cosa più da mettersi in mani di caffè, dici, cazzo, devo crepare in galera. E all'epoca si crepava in galera e adesso si è tornato a crepare in galera col 41 bis, eccetera. E quindi fu la lotta e gli obiettivi che ti ponevi, gli obiettivi, noi dal 68 al 75 siamo riusciti ad avere la nuova... regolamento penitenziario, avevamo avuto quindi una vittoria che non si era mai dato, ma soprattutto una cosa era più importante, che noi da tanti delinquenti autentici nel corso della lotta li avevamo trasformati in compagni a tutto tondo, capito? Gente che studiava, gente che discuteva, gente che aveva abbandonato tutte le sue sedie, quelle del carcerario che sono un po' fatte lì. E quindi avevamo trasformato una generazione di detenuti